Pablo Picasso, raccontato da Barbara Alberti. È il 1943. La passione fra Picasso e Dora Maar dura da 7 anni ed è in declino. Quando Picasso l'ha incontrata, era una grande fotografa. Era la regina della Parigi intellettuale. Era una donna affascinante. Ora è l'ombra di Picasso, sfibrata dalle violenze fisiche e mentali. E ora che l'ha ridotta finalmente la donna che piange, come l'ha dipinta fin dall'inizio, ora che l'ha sconciata nei quadri nella vita, si innamora di Françoise Gillot, pittrice di 21 anni, lui ne ha 63. La chiama la donna fiore perché non ha ancora fatto in tempo a trasformarla in cardo e le dice: Dio nel farti ha colto pienamente nel segno. Ma quando lei compirà 30 anni e lui ne ha 70, le dice: qualsiasi donna di 18 anni è più bella di te. Quando incontra Françoise al ristorante Les Catalans, Picasso già si bea della gelosia forsennata che suscita in Dora, alla quale causerà la prima crisi di pazzia. Ma Françoise non è come le altre. Françoise Gillot ha un primato su tutte le donne di Picasso. È l'unica che si ribella, l'unica che non si è suicidata, che non è impazzita. Semplicemente lo ha lasciato, dopo averci fatto 2 figli. E ci ha pure scritto un libro, Surviving Picasso, da cui James Ivory ha tratto il film. Fra le torture di Pablo ci sarà quella di leggerle le lettere della sua eterna innamorata, Marie-Thérèse Walter. Dopo che lei è diventata madre, come sempre, lui non la vede più come donna. Ed è stufo. E lei, che è più stufa di lui, se ne va. Il vecchio seduttore ci resta malissimo. Ma c'è sempre qualcuna pronta a raccattarlo, ovvero a farsi divorare. Incontra Jacqueline Roque, di 45 anni più giovane di lui, che ne ha 75. La schiava ideale, totale, che lo chiama monsignore, gli dà del voi e gli bacia la mano. La schiava che poi diventerà la sua padrona, una padrona feroce, che segue le volontà più crudeli del suo minotauro. Jacqueline scomunicherà ed esilerà dalla sua presenza le altre donne e gli altri figli. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it.